ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. Ottava puntata. Un solo amico io avevo a Otranto, Don Felice Ayerbo d'Aragona, con cui giocavo a scacchi la sera dopo aver atteso ai miei 1200 uomini e tenuto raduni nel cortile del castello. In verità, Don Felice non aveva il temperamento per il gioco degli scacchi, aveva al contrario una particolare idoneità a vivere sempre con afflato, dal che le partite non traevano profitto. Mentre giocava, infatti, non cessava mai di distrarsi. Si giocava una sera come al solito. Il grande salone era avvolto nella penombra, salvo l'angolo presso la finestra, dove le nostre facce si ingrandivano sorgendo dall'oscurità alla luce del candelabro. A turno uno di noi calcolava, muoveva una pedina. La mano sinistra di Don Felice pendeva inerte. La destra entrò e uscì dal cerchio di luce lentamente sulla traiettoria delle pedine. Le ombre dell'alfiere, della torre, andavano lungo la scacchiera, si accostavano, si separavano, si rattrappivano. Definitivamente scomparivano nella luce, per rinascere alla prossima mossa. Don Felice emise un sospiro, picchiettò con le dita della sinistra sul bordo del tavolino, affondò nel seggiolone alzando gli occhi dalla scacchiera e rivolgendomi uno sguardo ammirato. «Siete nato per gli scacchi, Zurlo», disse. «Qua i conti tornano sempre», risposi. Toccava a lui giocare, sicché la sua faccia ripiombò nel cerchio di luce, ma restava ugualmente lontana, impigliata in qualcosa. «Che c'è che non va?» chiesi. Sorrise con imbarazzo, non rispose. «Faccende d'ufficio?» insistetti. «Oh no, no! Notizie dalla Spagna?» «Stanno bene, stanno bene». Avanzò l'alfiere. «A voi», dissi giocando a mia volta, se non che lui sprofondò di nuovo nel seggiolone e aggrottò le ciglia. «Zurlo, vi sembrerà stupido, ma io adesso vorrei proprio sapere che cos'è l'amore». «Cristo», dissi fra me. «Voi», chiese con voce incerta, «che ne pensate? Non mi avete mai esposto le vostre idee sull'argomento». «Don Felice, se si gioca», dissi, «bisogna occuparsi del gioco». «Giustissimo, allora non giochiamo e ditemi le vostre idee». «Adesso, ma non potremmo finire la partita. Che necessità c'è di interromperla per parlare proprio di una cosa così lontana da noi?» «Sentite, amico, vi sembra un'idea tanto sradicata parlare di quella che è la più grande avventura della vita?» «Non sarà sradicata, ma abbiate pazienza, da anni non ha più niente in comune con la mia testa. Se mi diceste di parlare di vini, garbi, asprini, tondi, dolci, ma di amore!» Don Felice, dopo avermi guardato con tristezza, si scrollò sulla sedia, si alzò. Arrivato alla finestra che dava sul porto, rimase alcuni momenti pensieroso, con gli occhi volti in direzione del mare. Infine ritornò presso il tavolo da gioco e improvvisamente disse: «Zurlo, io sono innamorato». Lui fissava la scacchiera, le diceva con voce commossa: «Sicuro? Io amo. Mai vista una donna così, mai provata una cosa simile. Vedete, basta che lei muova una mano, scrolli le spalle, pieghi il risvolto della veste, perché io provi un'infinita beatitudine e insieme un infinito sgomento». Sì, non provereste estasi e sgomento anche voi, Zurlo, se d'un tratto vi vedeste camminare a 3 passi di distanza una creatura che vi sembra di aver costruito per tutta la vita, come una segreta fantasia nel mondo dell'irreale. Se la vedeste sedersi di rimpetto a voi, farsi vento, mangiare un marzapane, sorridere, non vi incanterebbe ogni suo movimento?» «Scusate, Don Felice», io dissi, «ma chi è?» «Un'otrantina che si chiama Idrusa. Ricordo la prima volta che la vidi, comparve nel mio ufficio una testolina bruna di donna, parlò e d'un tratto non ci fu più, come un'apparizione. Io dico che se si potessero rivivere certi momenti della vita che la prima volta si vivono così impreparati, oh, lo stare al mondo sarebbe una cosa magnifica». «E quanti anni ha?» io domandai. Rispose titubante: «Intorno ai 20. «Ai 20!» ripeté impressionato. «L'età della mia Cosima!» «L'età è cosa del destino», rispose Don Felice. Nella scrittura è detto che il vecchio Boaz amò Ruth di profondo amore e fu riamato. Abbiate pazienza, Don Felice, altro era Boaz, altro siete voi. Che volete dire? Voglio dire che al di fuori della Sacra Scrittura le fanciulle non amano gli uomini vecchi. Lui mi guardò e parve piuttosto scontento di me. Fissando un punto lontano del salone, invisibile, disse: «È una colombella, una giovane donna che ha sofferto e ha bisogno di essere amata». Quanto a questo, sembra sempre che le donne abbiano bisogno di essere amate e siano delle colombelle. Si tratta di una sensazione maschile che esse sanno utilizzare con molto successo. «Voglio aiutarla», egli rispose. «Si è fermata, non sa più andare avanti. Ha pensato anche di uccidere l'uomo che l'offese. E quando uno pensa di uccidere, vuol dire che non trova più la via d'uscita. Abissus abissum invocati in voce cataractarum tuarum». Don Felice aveva parlato con foga e ora aspettava che gli rispondessi, ma io tacevo. Cosa gli potevo mai dire? «Sta in guardia, vecchio mio, che la donna non ha per niente dolce leggiadretta scorza, come dice il poeta, e l'amore non è un ineffabile tormento, ma una faccenda molto, molto diversa, dalla quale si è sempre obbligati a fare qualche sciocchezza di dimensioni proporzionali all'età». Questo gli dovevo dire. Si sentì il grido delle guardie che si davano il cambio sui camminamenti del castello e il passo di quelle scadute dal servizio che scendevano per le scale di legno interne. Don Felice, che forse mi aveva letto nel pensiero, mi rivolse uno sguardo carezzevole e disse: «Si può disarmare come vorreste voi, Zurlo, ma non è vita, credete, non è vita». Interruppe molte cose la venuta dei turchi a Otranto, anche quel lungo discorrere per il quale eravamo bene accoppiati. Posso dire che niente è più confortevole di una conversazione ben condotta fra due esemplari come lui e me. Il mondo sembrava messo lì dal buon Dio fuori della finestra per le interiori necessità dei nostri dialoghi. Ma il 28 luglio dell'anno 1480 il mondo spalancò le nostre porte ed entrò. Quando le prue delle galee saracene presero la direzione del porto, io ero sulla torre alta del castello, da dove si assisteva bene alla scena del nostro destino. Io solo sapevo che dietro il vento a sbattere quelle vele c'erano fazioni politiche, discordie di governi, trame di ministri, un assieme per il quale tutti coloro che a Otranto nel luglio del 1480 erano in ottime condizioni di salute, in breve tempo avrebbero definitivamente cambiato natura. Lo sapevo e me lo dicevo fra me e me, mentre i poveri otrantini, che non sapevano niente, attendevano ordini. Avevo 1200 uomini alle mie dipendenze, 800 otrantini e 400 napoletani, oltre i presidiari del viceré spagnolo, arcivescovo di Brindisi, comandati da Don Felice. Ma questi ultimi sapevano far bene una cosa sola: chiedere licenze di servizio al viceré. Quando un mio messo, partito a cavallo appena i turchi dirottarono verso Otranto, giunse dal viceré ad informarlo della sciagura, lo trovò appunto con in mano una richiesta di licenza dei presidiari. Udito il messo, il viceré tacque, poi violentemente stracciò con le sue mani la richiesta a pezzettini che buttò a terra gridando: «Esta no sirve más». La notte seguente, all'ora quarta, si presentò trafelato Don Felice a darmi la notizia che i soldati spagnoli erano fuggiti dalle mura con funi di giunco. L'indomani, indossando la corazza e legando le maglie, non potei non rammaricarmi della vita che alla mia esattezza di calcolo rispondeva sempre con una sorta di confusionaria imprecisione. I soldati spagnoli, su cui tanto contavo, erano scomparsi. Giovannello, invece, era stato impossibile mandarlo via da Otranto. Quando gli avevo detto, prima ancora dello sbarco dei turchi: «Adesso tu fai fagotto e parti subito per Napoli», lui si era impuntato. Niente partenza. Inutilmente avevo cercato di spiegargli come la sua mente afferrasse molto bene tutto quello che era astratto, ma che a scaldare pece e portarla sulle mura o ammazzare i cani e pelarli non me lo vedevo. E che qualcuno a confortare la madre e le sorelle doveva andarci, e non poteva essere che lui. «Io non sono un vigliacco», concluse. «Io resto qui». Il quinto giorno decisi di mandare al re una lettera che fosse un appello disperato, una nuova richiesta d'aiuto, e di trovare qualche coraggioso che ce la facesse a uscire dalla città e giungere fino a Napoli. La scrissi senza lunghi preamboli, dato che le bombarde turche bersagliavano da 4 giorni la città. Dissi che le provvigioni erano poche, gli uomini pochi, e che se noi fossimo caduti il male non era per niente la nostra scomparsa dalla faccia della terra, bensì il pericolo che correva tutto il reame, per non dire tutta la cristianità e la fede predicata dagli apostoli di cui Sua Maestà Serenissima era delegato e tutore. Nel posare la penna diedi un'occhiata al ritratto di Don Ferrante appeso alla parete del mio studio. Sua Maestà aveva un corsetto di raso rosso listato d'oro e un colletto inamidato. Stava in piedi alla destra del trono, mentre alla sinistra lo fissavano con umile devozione 3 ministri, di cui però il re sembrava non occuparsi affatto. A cosa pensava il re? A dire il vero, sembrava che con somma gravità non pensasse a nulla. Mi alzai e mi diressi al palazzo arcivescovile, in quanto solo l'arcivescovo, che conosceva bene tutti gli otrantini, poteva suggerirmi l'uomo adatto all'eccezionale missione. Sua Eminenza, l'arcivescovo Pendinelli, era la cosa più nobile di Otranto. Di sottilissima persona, aveva dita magre e gentili, pesava sì e no 50 kg, che testimoniavano però di un'enorme stabilità fra le distruzioni. Testimoniavano direttamente della presenza di Dio. Devo dire che grande era l'immagine di Dio nelle anime degli otrantini. Quando giunsi nei suoi appartamenti, il segretario mi disse che Sua Eminenza era in terrazza a recitare il breviario. In terrazza, con le bombarde che sparano da mattina a sera. Oh, Sua Eminenza non ci pensa, mi rispose il segretario. È immerso nella preghiera. Dovreste impedirglielo, è pericoloso. Il segretario alzò gli occhi al cielo, come se la cosa io dovessi risolverla direttamente col buon Dio. Non mi restava che attendere di essere ricevuto. L'arcivescovo mi venne incontro con tanta lievità che nemmeno lo udì accostarsi. E allora, mio bravo Zurlo? La situazione è sempre più grave, Eminenza, dissi. Potremmo resistere pochi giorni. Egli levò le dita nell'aria. Disse con voce carezzevole: è necessaria ora una fede immensa. Il fatto è che non abbiamo artiglieria, Eminenza, risposi, mentre i turchi hanno alcuni pezzi molto grossi. Se arriveranno subito rinforzi, bene, altrimenti è impossibile farcela. Sentite, amico, se voi poteste per un momento lasciar da parte l'idea che ci siano cose a Dio impossibili, che fareste per la nostra città? Io scattai. Quello che sto facendo, Eminenza, quello che la mia testa di governatore e di soldato di Sua Maestà Cattolica mi suggerisce. Ho distribuito gli otrantini sui bastioni e sulle torri, i soldati napoletani in parte sulle mura e in parte presso i conventi di San Giovanni e di San Francesco, che saranno attaccati per primi perché sono ai 2 estremi della città. Dalla parte del porto non ci assaliranno, essendo l'acqua troppo bassa per le galee. Ho fatto raccogliere tutti gli animali da macello, i cani e i gatti, per razionare i viveri. Poi, se volete, posso predirvi la fine di tutto ciò, qualora non giungano in settimana i rinforzi. L'arcivescovo scosse il capo, quasi volesse negare le mie ultime parole, al che io fui sul punto di perdere la pazienza e dissi: voi parlate, Eminenza, come se in Otranto abitasse una schiera di arcangeli e di serafini armati di spade, ma vi abitano solo dei poveri pescatori disarmati. Zurlo, non agitiamoci. Non si muove foglia che Dio non voglia. In che cosa vi posso essere utile? Ho bisogno di un otrantino di assoluta fiducia e di molto coraggio per affidargli un incarico pericoloso, recapitare un plico a Napoli a Sua Maestà. Va bene, tornate domani e l'uomo ci sarà. Ero irritato quando lasciai il palazzo. Consideravo fra me come a parlare coi santi nascesse spesso nel discorso una grande confusione. E poi non era solo quello. Mi costernava l'idea che ci fossero tante persone al mondo a cui non capitava mai di pensare veramente. Mettiamo Don Felice, per esempio, o mio figlio Giovannello, o l'arcivescovo. Era mai possibile che io avessi sempre a che fare con le idee di quelli che non pensavano? L'indomani l'arcivescovo mi attendeva nella loggia del palazzo. «Ho trovato l'uomo», disse con la sua voce dolce e sottile, lentissima. «Bene, quanti anni ha?» 27. Vi dovrebbe piacere. Allora è meglio vederlo subito». «Sì, è meglio che gli parliate. Io gli ho già spiegato la cosa». «Sarà coraggioso abbastanza?» «Giudicherete da voi, capitano», egli rispose con la sua calma sconcertante. Si mosse, aprì una porta che dava nell'appartamento privato. La porta gli si richiuse alle spalle. Quando ricomparve, lo seguiva un giovane alto dai capelli folti e nerissimi, il collo nodoso, con in mano un bastoncino di canna bianca che gli accarezzava con le dita. Davanti a me smise di accarezzarlo e stette dritto, teso, come chi attende un ordine da eseguire immediatamente. «Il vostro nome?» chiesi. «Fanciullo». «Come?» «Giovanni Fanciullo». «Ah! Vi si chiede se siete pronto a calarvi dalle mura in mare la prossima notte, cercare di non farvi sorprendere da alcuna freccia finché avrete raggiunto a nuoto la rocamatura e di lì servirvi del vostro giudizio per arrivare a Lecce, dove vi daranno un cavallo, India a Napoli». «Sì, signore», rispose semplicemente. «Sentite», io dissi, «prima di accettare considerate bene che l'azione è pericolosa e potreste anche morire. Pensateci». «Io non penso nulla, signore», fu la risposta. «Bene», dissi. «Che cos'è questo bastoncino?» «È un astuccio di canna da tagliare e turare con la cera. Quando Vossignoria ci avrà messo la lettera che deve arrivare a Napoli, io me lo legherò alle brache e la lettera non si bagnerà in acqua». «Buona idea». Il giovane, con le mosse di un leopardo, girò alle mie spalle e andò a inginocchiarsi davanti all'arcivescovo, baciandogli la mano con un gesto di una grazia imprevedibile in un uomo così robusto e muscoloso. Cominciai a pensare al punto preciso delle mura da cui avrei dato ordine che venisse calato, fra settentrione e levante, dalla parte del mare. Fu nel momento in cui calcolai l'altezza delle mura e di conseguenza il tempo in cui il poveretto sarebbe rimasto sospeso nel vuoto come uva di pergola esposto alle frecce turche, fu allora che d'istinto mi voltai a guardarlo. Era fermo, in piedi, vicino all'arcivescovo, entrambi con un lieto sorriso assorto. La notte successiva fu limpidissima, sicché dovetti attendere il tramonto della luna per dare ordine agli otrantini di calare Fanciullo con le funi. Eravamo già da tempo tutti pronti e l'uomo, legato con due giri di corda ai fianchi, attendeva appoggiato con la schiena nuda alla torretta di guardia. Gli otrantini, incaricati di calarlo, non dicevano una parola e nemmeno gli altri, che si erano accostati per vedere la discesa. «Avanti», ordinai, «è ora». «La senti bene legata la corda addosso?» chiese Mastro Natale. «Sì». «Buona sorte», disse Mastro Natale. «Buona sorte», ripeterono in coro gli altri. «Addio», lui rispose appena scavalcando il muro e abbandonandosi nel vuoto. La notte seguente, l'ultima prima della caduta di Otranto, dopo aver obbligato Giovannello ad andare a dormire qualche ora, ero salito sulla terrazza del castello. Mi era venuta un'improvvisa voglia di tornare là dove in tempo di pace spesso sedevamo la notte Don Felice, io e Giovannello a prendere il fresco e a fare due chiacchiere notturne, mentre la città dormiva e il caldo di una fine di giornata, salendo dal tufo dei muri, si scontrava con il fresco umido della notte. Bei tempi. L'indomani i turchi sfondarono a Porta San Francesco. Quando mi accorsi che era la fine, ordinai di far suonare tutte le campane a festa, come se stessero arrivando le milizie napoletane. Il trucco per qualche ora fece effetto e i nemici, interrotto l'assalto, si radunarono tutti insieme al di là del fossato in attesa. Ma poiché nessuno arrivava, poco prima del mezzogiorno essi sferrarono l'ultimo attacco. Riempiti i fossi, fecero sparare contemporaneamente tutte quante le artiglierie, senza tuttavia far uso di palle per non colpire i loro stessi uomini che avanzavano tra il fumo delle artiglierie piegati sul ventre. Ero in quel tratto di mura presso la cattedrale, dove si alzava un arco di pietra porosa e friabile, simile a tufo, e dove si erano concentrate le maggiori forze del turco. Ivi, nel primo meriggio, chiamai a raccolta gli uomini che ancora erano in grado di combattere. La fortuna ci arrise per qualche poco, anche il tempo ci arrise. Grosse nuvole avanzavano da scirocco a smorzare la calura del sole. Allora mi venne accanto Mastro Natale. Disse: «Capitano Zurlo, salvatevi nella cattedrale. Gli uomini avranno bisogno di voi dopo, per trattare la resa». «Senti, Mastro Natale, pensa a mio figlio, portalo via subito». «Ormai non serve che voi moriate», lui rispose. «Io mi ritirerò con gli ultimi uomini, vai!» «Come volete, signore, e a nome di tutti gli otrantini il mio rispetto». fece un atto come se starnutisse. Si era commosso il vecchio. «Addio, Mastro Natale», dissi. In quella il capitano degli falconi gridò: «Zurlo, stanno entrando dalla breccia!» Sicché io mi rizzai e con quanta voce avevo in gola diedi l'ultimo ordine: «Correte nella cattedrale, mettetevi in salvo!» Mentre ripetevo «Salvatevi!» agitando in aria la spada, i turchi mi presero di mira, colpendomi al petto, e caddi a terra. Non sentii molto dolore, più che altro un gran colpo mentre cadevo, cui seguì un annebbiarsi della vista. «Ecco com'è fatta la morte», pensai. «Ma non è una cosa tanto difficile. Mi pare che si possa proprio andare. Anzi, non è per niente difficile». Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.